Eccoci, allora siamo con Silvia. Ciao. Ciao. Ecco, ci senti bene? Sì. Sì, sì, sì. Perfetto. Allora, Silvia si sta occupando dell'organizzazione di questo corteo previsto per il 23 pomeriggio alle ore 15 con partenza a Piazza della Rocca da Caorso, e quindi Caorso sede già della centrale nucleare, forse la più importante, insomma, che si è aperta sul territorio italiano, che poi ha una storia tutta particolare che forse vale anche la pena un po' riassumere, o no, Silvia? Sì, insomma, Caorso è il più grande impianto che c'era in Italia in funzione, e ha, diciamo, la tecnologia che ha la centrale di Fukushima, insomma, lo stesso tipo di reattore e lo stesso tipo di tecnologia. La centrale di Caorso ha avuto dei problemi anche il primo giorno che è stata messa in funzione, e ha rilasciato della radioattività attraverso il vapore. E insomma, da Caorso noi ci sentivamo di ripartire proprio perché era un punto focale per il ritorno nucleare in Italia, proprio perché il reattore di Caorso è ancora lì. Lo smantellamento della centrale sta avvenendo dal reattore in poi, senza toccare il reattore, e quindi diciamo che potrebbe essere che la centrale di Caorso venga riattivata in maniera molto più veloce rispetto alle altre. E per questo ci siamo sentiti di proporre un corteo a Caorso per partire da lì a far capire ai nostri governanti e alle lobby nucleari che noi il governo e che noi il nucleare non lo vogliamo. E quindi da qui abbiamo deciso di iniziare questo percorso a Caorso. Insomma, è abbastanza paradossale poi anche la storia dell'impianto relativamente agli ultimi anni, all'ultimo decennio, se vogliamo, no? Perché poi l'inizio del percorso di smantellamento, ecco, ricordiamo, insomma, che ogni qualvolta si apre un ciclo nucleare va poi necessariamente chiuso anche lo stesso ciclo. Esatto. E quindi questo poi porta il tutto a avere piena coscienza dei grandi nodi irrisoluti della questione nucleare, perché ci sono, esatto, le scorie, le contaminazioni. Infatti, appunto, anche a Caorso ci sono ancora stipate all'interno della centrale 8700 fusti di scorie, che insomma sono ancora lì in attesa di essere portate via, insomma. Quindi il ciclo, diciamo, che non è stato ancora chiuso. Completamente chiuso, poi in mancanza di un deposito nazionale di scorie, che era quello che volevano fare a Scanzano, che poi col fatto che la popolazione si è ribellata non è stato fatto. Ogni centrale si tiene un po' del precedente passato nucleare, insomma. Insomma, l'autorizzazione per avviare questo percorso fu, diciamo, data, rilasciata nel 2000. Il decreto poi nel 2008, quindi era un decreto col quale in realtà si autorizzava e si avviava questo processo di smaltimento delle scorie, tra l'altro il tutto a vantaggio anche... Ti sento poco. Dicevo, il tutto anche a vantaggio dell'azienda che se ne è occupata, cioè la Sogen, che è, esatto, stata pagata, insomma, notevolmente per trattare le scorie trasportandole in Francia. Se l'impianto è costato 300 miliardi di lire, ecco, la Sogen ne ha intascati 250 milioni di euro per occuparsi delle scorie. Quindi pensiamo un po' al rapporto di spreco di risorse che c'è nella costruzione di questi impianti e poi per curarne lo smantellamento. Fatto sta, Silvia, che proprio quando sembrava che questo ciclo potesse chiudersi, nel 2009 è rispuntata la possibilità, appunto, di fare di Caorso il nuovo sito per il nuovo rilancio dell'atomo in Italia. Dicevi a proposito delle scorie, perché appunto parzialmente sono spedite in Francia, sono rimasti, appunto, come dire, ma è rimasto rifiuto radioattivo accumulato, che si è accumulato nelle fasi di esercizio della centrale, Ma in che modo è tenuto? Voi sapete in che modo è tenuto ancora ciò che è rimasto, cioè che se, almeno a quanto sembra dovrebbero essere scorsi di meglio in pianta. Ma a quanto sembra non è tenuto fatto bene, infatti c'era anche un giornalista della stampa che era uscito pubblicamente facendo un incontro dicendo che lui era riuscito ad entrare all'interno della centrale di Caorso senza essere fermato con due macchine fotografiche, era riuscito a girare indisturbato per un paio di ore all'interno della centrale fotografando il reattore e i camion che caricavano questi rifiuti, appunto, che erano poi lasciati abbastanza in balia di se stessi, poco, diciamo che la manutenzione non era proprio il massimo, insomma il giornalista anzi ipotizzava che ci fosse un intrallazzo insomma con frange mafiose che si occupassero poi di smaltire questi rifiuti, insomma. Quindi per quanto riguarda la manutenzione di quello che è rimasto lì, sicuramente non sono tenute nel migliore dei modi, appunto le scorie hanno bisogno di essere controllate, continuamente tenute in manutenzione fussi per evitare che ci siano perdite piuttosto che altro. Sicuramente nella centrale di Caorso questo non viene fatto. E siccome quando parliamo di nucleare parliamo in realtà di morte, questo è bene che si sappia, diciamo anche che insomma nel territorio circostante Caorso, almeno negli ultimi 10-20 anni, non si è potuto fare a meno di notare quanto sia cresciuta l'incidenza delle malattie, dei tumori, delle leucemie. È una cosa con cui si fa i conti, insomma. Sì, sicuramente è una cosa sentita anche dalle persone. Noi nei nostri volantinaggi presidi che abbiamo fatto, questo dato di persone che si ammalavano tornava spesso a detta proprio della popolazione. C'è da dire che quest'anno partiranno i rilevamenti proprio per fare degli studi per appunto verificare quanto la centrale abbia inciso sulla popolazione. La domanda che viene spontanea è: dopo 30 anni che la centrale è chiusa, adesso iniziano a fare i rilevamenti, ovviamente è il momento un po' tardo, insomma, come dire, ci si poteva pensare prima. Beh, un tantino prima quantomeno. Senti Silvia, insomma, oltre all'urgenza di mobilitarsi e di muoversi contro il nucleare, indipendentemente poi dalle scelte quantomeno pretestuose o comunque funzionali ai propri progetti che fanno a Palazzo Chigi, è importante anche dire una cosa, io lo sottolineavo anche all'inizio, cioè il vostro corteo è stato indetto prima che la paura di Fukushima conteggiasse insomma un po' tutti, e quindi è questo comunque un aspetto importante, perché insomma va anche riconosciuto il fatto che le mobilitazioni non si muovono rispondendo alle onde emotive del momento, no? Sì, no, infatti noi era un po' che ci stavamo lavorando su questo progetto di un corteo e ci sembrava importante portarlo insomma a Caorso, che era il luogo che avevamo identificato come sicuramente una tappa da cui sarebbe passato il nucleare italiano. Fukushima è arrivata dopo, e Fukushima ha anche, come dire, svegliato un po' gli animi, si sono risvegliate tante paure e infatti ad esempio anche poi nei momenti successivi in cui scendevamo a Caorso e nelle zone limitrofe, diciamo che l'attenzione e l'interesse era molto cambiato, c'era molto più gente interessata e insomma Fukushima ha avuto un bel impatto sulle paure delle persone. Senti Silvia, un'ultima cosa, dal punto di vista organizzativo come vanno le cose? State incontrando delle difficoltà? Noi abbiamo già dato, e lo continueremo a fare, anche la mail per chi ha intenzione di partire da Roma per raggiungere Caorso la mattina del 23. Ma diciamo che insomma noi, vabbè, l'autorizzazione era stata chiesta tempo fa, Caorso è un comune piuttosto piccolo, quindi diciamo che il percorso del corteo viene quasi naturale, sarà insomma in città, nel senso nelle vie principali, insomma. L'unica cosa che adesso stiamo ancora noi verificando è il sindaco che si era lamentato del fatto che passavamo per il centro disturbando per lo shopping la cittadinanza, e quindi sembra che andrà in prefettura a chiedere di cambiare, poi dopodiché, nel senso, a noi non cambia molto, poi insomma al momento del corteo ci valuteremo le scelte da fare, insomma si faranno quelle, non è niente di certo, probabilmente ha voluto far vedere che c'era anche lui e che non era d'accordo, insomma. E va bene, allora casomai lì viene una crisi di identità poi al sindaco, insomma. Senti Silvia, ti ringraziamo per questo collegamento e speriamo grazie di essere in tanti il 23. Ciao. Speriamo, a sabato. Ciao. Ciao.